Benvenute tutte le signore e signori qui presenti, un caro affettuoso saluto ad Ada Tappelli Zucker, la nostra autrice, ospite questa sera. Per me è un grande piacere perché sono 10 anni che ci conosciamo, 10 anni che Ada Tappelli Zucker scrive e presenta i suoi libri anche presso la nostra biblioteca, la biblioteca Claudio Augusta, che quando abbiamo iniziato ad avere questo rapporto di amicizia era ancora in una vecchia sede in via Mendola 5 a Bolzano, e poi fortunatamente siamo riusciti a spostarci qui a Trevi. Infatti ricordo che la sede è qua sotto nell'angolo di via Marconi, e quindi siamo operativi da un anno tutti insieme con il centro Trevi e i vari servizi. Ci teniamo molto a questa serata perché appunto sono 10 anni che Ada Tappelli scrive, e mi è piaciuto leggere in una nota della sua biografia questo percorso, un percorso nuovo che lei ha iniziato, intrapreso, perché si era resa conto a un certo punto che la lingua italiana stava scomparendo. Ecco, abituata a girare il mondo, a vivere in altri contesti, quindi usando altre lingue, quella, diciamo, la lingua madre stava un po' perdendosi, e quindi con grande pervicacia, forza di volontà e soprattutto anche col grande bagaglio culturale che la sorregge in tutte le sue scelte, Ada ha iniziato a scrivere, e attingendo, penso, a piene mani anche alle proprie esperienze di vita, a quello che è il suo bagaglio di ricordi, ha avuto una vita e ha una vita intensissima tutt'oggi, che l'ha portata a conoscere, a muoversi in ambiti prevalentemente artistici, quindi è una privilegiata secondo me, perché ecco, è riuscita a muoversi e ha potuto lavorare muovendosi in questi ambienti, entrando in contatto con tante persone, avendo anche parecchie soddisfazioni, essendo stata ed è ancora insegnante di canto, ha conosciuto e ha potuto far crescere dei talenti di fama internazionale. Ricordiamo una in particolare di Bolzano, che è Gemma Bertagnolli, e quindi insomma la vita di Ada è sicuramente una vita molto ricca, che forse poi ci potrà anche raccontare in alcune parti, alcuni episodi. Ha molte caratteristiche, chiaramente è una persona che, essendo nata in Sicilia, che poi ha studiato a Roma, è arrivata in Alto Adige, si è mossa a Vienna e in Germania, insomma conosce l'Europa, è una persona che riesce a trovarsi in ogni situazione a proprio agio, a costruire un tessuto ricco ed intenso di relazioni, di amicizie, di persone che la apprezzano, e quindi anche qui a Bolzano ha un suo seguito di lettori, di lettrici che la seguono costantemente, e devo dire che anche nei racconti che ha scritto, nei romanzi che finora ha pubblicato, emerge proprio questa poliedricità della persona che attinge sia il proprio bagaglio culturale, ma che è sicuramente una persona con una sfaccettatura e con degli interessi molteplici che spaziano non solo nella musica e nel canto, ma anche nell'arte. Le copertine dei libri sono tutte dipinti di Ada Tappelli Zucker, e poi insomma si muove tutto nell'ambito della narrazione, una narrazione sempre molto anche concreta, verosimile, quindi chiunque di noi può riconoscersi in qualche storia, in qualche racconto, trovare una comunione intima con quello che ci viene raccontato. E questo racconto, anche questo insieme di racconti, un'infanzia dal titolo Un'infanzia quasi felice, racconta delle storie di bambine. Ecco, c'è questo sguardo interessante dell'adulto che però racconta come un bambino vede certe situazioni della vita, come le ha vissute. È una narrazione un po' particolare, chiaramente, perché è un'operazione difficile e complessa, quella di rimedesimarsi in un bambino, nel suo modo di ragionare o di leggere delle situazioni. Lo scopriremo adesso piano piano, anche con l'aiuto di Alessandra Linetti, che è l'attrice che questa sera leggerà e ci accompagnerà in questo percorso, in questo dialogo con Ada Tappelli. E quindi sarà molto interessante, ecco, leggere e cogliere questa descrizione di dei pensieri che passano per la testa delle bambine, di queste protagoniste nei vari racconti, in situazioni direi quasi eccessive, no? Cioè non assolutamente normali, sono momenti di vita particolari dove il bambino guarda e riflette ad alta voce tramite la narrazione di Anna. Facciamo partire subito Alessandra? Benissimo, allora grazie. Mi presento, mi chiamo Tina, ho 3 anni e 8 mesi. Qualche giorno fa sono riuscita a impossessarmi di un aggeggino che usa sempre la mamma per parlarci dentro e ho deciso di fare lo stesso anch'io. Temo sia un discorso piuttosto lungo, ma tanto io ho una quantità di tempo a disposizione, senza contare che nessuno mi ascolterà nei secoli futuri. In realtà, mi propongo di dimostrare di avere ricordi e opinioni sul mondo e sulla vita in generale, come nessuno riesce a immaginare. Con queste mie riflessioni, intendo dimostrare il contrario, soprattutto agli increduli, che sono tanti. Dunque, tutto incominciò nel momento stesso in cui una forte spinta, proveniente da non so da dove, mi costrinse a passare attraverso un canale stretto come un accidente. È un affare non da poco, anche perché alla fine, per sopravvivere, o meglio, per togliermi da quell'impaccio e farla finita, ho dovuto aprire una porta a forza di colpi di testa. Una fatica immane, posso confermarlo ancora oggi, anche perché continuo a sognare quasi ogni notte lo stesso martirio. Ma per fortuna riesco sempre a svegliarmi in tempo, cioè prima dell'ultimo sforzo, terrorizzata, anzi fuori di me dallo spavento. Mi calmo soltanto quando qualcuno mi solleva dal letto, nonostante i miei 3 anni e più, mi prende in braccio e mi coccola un poco, con voce assonnata, per non dire rassegnata. Ma torniamo a quel fatidico momento, quando ho sentito dire quello che dalla mamma viene definito il trauma della nascita. E loro lo chiamano trauma. Io lo chiamerei il momento più pericoloso che una povera creatura innocente, senza alcuna colpa, deve affrontare per vedere la luce del sole. Ma chi lo vuole vedere questo sole? Me l'ho chiesto qualcuno, forse? Io avrei preferito continuare a nuotare in quel liquido tiepido, nella semioscurità, ben protetta, ben nutrita, per tutti i secoli a venire. E invece? Invece niente. Sono stata costretta a vedere la luce del sole, che tra l'altro mi acceca gli occhi. Con estrema crudeltà, poi, sono stata separata con un colpo netto dalla fonte di ogni mio benessere. Ho sentito una voce che diceva: «Ma lo avete tagliato quel benedetto cordone ombelicale?» E subito c'è stato perfino qualcuno, credo lo stesso del cordone ombelicale, che ha pensato bene di assestarmi un bel colpetto sulla schiena per farmi tossire, ha detto. E io, sorpresa, anzi spaventata, mi sono messa a urlare che non posso, sputando una quantità di liquido. I miei primi urli in quella che qui tutti chiamano vita. E non sapevo di avere una voce. In quel luogo dove mi trovavo, prima sentivo dei suoni provenienti dall'esterno, attutiti dalla parete che mi separava da quel mondo. Io stessa me ne stavo zitta e buona, dormivo più o meno tranquillamente, cullato da certi movimenti provocati dalla persona che mi portava. A volte mi preoccupava il pensiero di quel mondo che si annunciava da fuori. Sentivo infatti certe voci. «Signora, questa è una bambina!» E un'altra voce, sempre la stessa che ormai conoscevo. «Una bambina? È sicura, dottoressa? Mio marito avrebbe preferito un maschietto!» «Allora sono una bambina!» Ho pensato per la prima volta. Chissà cosa vorrà dire. Ma come fanno a saperlo? «Guardi, signora, la vede la sua bambina?» E io non vedevo nessuno, e quelli di fuori vedevano me. Ah, una bella indiscrezione. E un'altra volta la stessa voce di prima. «Signora, da certo è una bambina, glielo assicuro. Suo marito dovrà mettersi il cuore in pace e tentare una seconda volta.» E l'altra voce subito. «Sa, ma noi abbiamo pianificato un solo bambino.» Mi chiedo ancora adesso che cosa significhi pianificare. Ad ogni modo, io sono stata pianificata, ma devo aver sbagliato qualcosa. Una grande incognita per me. Mi avrebbero accettata anche così? Sandra ha letto l'incipit, diciamo, del libro, e inizia proprio con una nascita, una scelta anche interessante, ambiziosa, oserei dire, perché della nascita e della morte noi non abbiamo un ricordo, non abbiamo una consapevolezza, sono due momenti della nostra vita che sono quasi dei tabù, perché anche difficilmente assistiamo a una nascita oggi come oggi, e soprattutto assistiamo anche a una morte. Ma quello che mi ha colpito è proprio anche la capacità di introspezione di Ada e la riuscita nel raccontare cosa può provare una creatura in questo momento e delle riflessioni che ha fatto. Come mai questa idea di descrivere questa fatica alla fine di nascere e questo disagio, di questa accoglienza anche un po' strana, no? Tutto sommato, di questa bambina che scopre e non sa cosa significhi essere una bambina. Essere una bambina. Dunque, questa idea mi è venuta, mi sentite, no? Devo alzare il microfono. Alzare. Io ho un tondo. Forse parlo così, mi sentite lo stesso? Devo muovermi su più piani, non... Funziona adesso? Sì, sì. Sì, sì. No, acceso, no? È acceso. Però non... Non si sente niente. Cosa facciamo? Adesso mi sembra che va meglio. Mi sentite? Sì. Allora, l'idea di incominciare con la nascita è una cosa che trovo assolutamente normale, perché abbiamo cominciato tutti con la nascita, come se no, mica siamo arrivati qui già cresciuti prima ancora di nascere. Questa è una cosa molto interessante, e devo raccontare un episodio che mi ha aperto molto gli occhi. Io fino all'ottavo mese ho cantato in teatro, ero all'ottavo mese, quindi il mio bambino mi sentiva, ma non lo sapevo. Anni dopo, forse due o tre anni dopo, questo bambino così dice: mamma, sai, prima avevo una sorellina che cantava sempre, poi se n'è andata via. Questo mi ha sconvolto. Sono passati 45 anni, figlio 48 anni, e ho pensato: ma allora mi ha sentito, sentiva che io cantavo. Ma è chiaro che i bambini sentono la voce della mamma, sentono anche quando parliamo, figuriamoci quando parliamo. Quindi era cosciente e se lo ricordava. Lui a due o tre anni si ricordava di questa sorellina che cantava sempre. Questa è una storia veramente che mi ha fulminato, perché ho capito che in realtà quello che noi pensiamo sempre i bambini è, come diceva mio padre, purtroppo devo dire, erano convinti che i bambini non capissero niente. Quindi si parlava, si diceva un sacco di cose brutte, anche convinti che i bambini non capissero. E invece capivano addirittura quando erano dentro la pancia della mamma. Già sentivano tutto, ha sentito perfino che era una bambina e non un maschietto. La protagonista, anzi le protagoniste di questa raccolta di racconti sono appunto, come avete capito, delle bambine piccole, inserite in contesti diversi, e in particolare questo primo racconto è dedicato a Tina. Ecco, la bambina si chiama Tina e penso che sia una protagonista costruita e pensata attingendo anche un bagaglio familiare. Vuoi raccontarci qualcosa? Certamente, dunque, l'ho chiamata Tina per motivi, diciamo, letterari, perché sarebbe stato troppo chiaro chiamarla Lily. Lily è la bambina che mi ha ispirato, cioè è l'ultima, la penultima, però non sapevo ne è nata un'altra. Però per quando ho scritto questo racconto era l'ultima mia nipotina, Lily. E vedere questa bambina da appena nata e vederla crescere per me è stato emozionante, come neanche mio figlio mi ha molto emozionato, non soltanto ha cambiato la mia vita, questo è chiaro, addirittura ha capovolto la mia vita. Io a un certo punto, prima ero una cantante, ero un individuo, poi sono diventata soltanto Scusate. Sì, in effetti poi di riflesso c'è sempre la considerazione del ruolo, del compito, anche tra virgolette morale, no? Che viene affidato e affidiato al ruolo della mamma, e che oggi si cerca di stemperare anche con delle agevolazioni, ma che in realtà alla fine rimane molto ancora radicato intorno al ruolo della donna, che vabbè, qui apriamo anche le aggiunti, io non mi fermo più qui, meglio che la autodisciplina, se no con tre figlie sto esercitando un pressing non da poco. Però i genitori sicuramente sono condizionati, si passa da un altro, si passa al fossato. Ecco, io anche ho avuto questa strana sensazione quando è nata mia prima figlia di varcare una soglia, di non tornare più indietro e di vedermi in una nuova prospettiva, sì, ma anche di relazionarmi in maniera diversa nei confronti dei miei genitori. Questo è successo? Molto importante. Devo dire la verità, perché io non dico mai strano, mai vero, non dico mai bugie. Oppure non parlo, ma piuttosto che dire una cosa che non la penso, non la dico. Dunque, io ho cominciato molto tardi a ripensare ai miei genitori. E mia madre è morta, io ero molto giovane, io amavo moltissimo mia madre, ero legatissima a lei. E quando, da quando è morta mia madre praticamente mi può essere, io perdendo mia madre ho perso la mia casa, la mia famiglia, e praticamente la parte della mia vita è cambiata completamente. Con mio padre ho avuto un rapporto molto difficile, difficilissimo, appunto perché mio padre, quando avevo 30 anni, si scusò con me del fatto che sapevano, che credevano che i bambini non capissero niente. E io purtroppo devo dire che questa è una cosa che dico sempre, mi pento tanto di non aver accettato le sue scuse. Ognuno fa degli errori e ignoro sempre su questi errori di non essere riuscita a scusarmi. Io non posso più parlare di questo tanto. No, i miei genitori siamo tutti figli, no? Siamo tutti figli. Ecco. E qui questa è una sicurezza, una certezza. Quindi abbiamo tutti facciamo le nostre considerazioni che magari cambiano anche a seconda della vita, a seconda dei momenti della nostra vita, e quindi penso che a tutti sia passato il momento dove non si è apprezzato qualcosa, si era un po' più conflittuali, anche momenti dove tutto è scivolato via e è andato tutto anche via, insomma, quindi. No, io adesso che mi sono ripresa vorrei aggiungere qualche cosa. Adesso che mio padre è morto da 40 anni, devo dire che sono molto grata a lui, che mi ha fatto tante difficoltà, tante, mi ha creato una quantità di problemi, però mi ha dato una forza per lottare e dimostrare che ha sbagliato. E gli sono tanto grata perché ho tutti i suoi difetti. No, questo è un riconoscimento che mi viene veramente molto spontaneo. Ritrovo perfino le sue mani, la mia faccia, ogni cosa di lui la ritrovo in me, ma anche nel carattere, nel suo modo combattivo, questo essere sempre il contrario, questo affrontare tutte le difficoltà. Una delle frasi più famose di lui che ho ripetuto sempre, credo tutta la mia vita, è quella di andare. Noi non siamo alberi, non mettiamo radici. Gli alberi non si, quello dice con una bambina, gli alberi non si muovono perché non hanno due gambe, noi ne abbiamo due per muoverci. Questo è stato una regola, arrivo il mio traduttore, e questa è una regola fondamentale per me e l'ho avuta da lui. Da mio padre ho avuto una quantità di lati negativi, ma anche tantissimi positivi. Questa mia energia l'ho da lui, non certo da mia madre, che era una donna molto dolce e mite. Io sono tanto che dolce e mite, questo lo vedete subito, e invece era mio padre combattivo, e questo sono io. Grazie papà, dopo 40 anni. Devo chiedere ad Alessandra se ha riguardato anche gli uomini. C'è spazio anche per loro. Qualcuno che parla. panettini anche degli uomini. Le parole mi venivano in mente, ma la lingua si rifiutava di pronunciarle. Che rabbia. Ora posso dirlo, fu il periodo più irritante della mia vita. Ero impaziente e davo terribilmente ai nervi a tutti, soprattutto alla mamma. Lei si metteva davanti e cercava di spiegarmi come dovevo parlare. Avrei voluto gridarle, lo so bene, non ho bisogno di spiegazioni tecniche, è la lingua che non vuole obbedire. Fu necessario un lungo e paziente esercizio. Ogni giorno, ogni minuto, anche di notte se mi svegliavo, cominciavo ad esercitarmi. Quando finalmente riuscii a dire Tina, ed ero molto fiera perché mi era costata una fatica da cani, la mamma fu subito pronta a correggermi. Ma questo l'ho già detto. A proposito di cani, devo subito dire di avere una bestiola che porto sempre con me, un orsetto. Lui dorme con me, sta seduto in carrozzina insieme a me e, per concludere, non potrei immaginare la mia giornata senza di lui, per non dire la notte. Lui è sempre, sempre, sempre con me. Credo che mi abbia insegnato il sentimento più consolante, più dolce che ci sia, l'amore. Il mio orsetto mi ama e anch'io lo amo teneramente, di questo ne sono certa. Credo sia venuto al mondo insieme a me perché è il mio primissimo ricordo, al di fuori del seno che mi ha nutrito. Quello è senza dubbio il primo ricordo, fin dalla nascita. Questo però non vuol dire che lo abbia amato come ho subito amato il mio orsetto. Il mio orsetto non mi ha mai costretto a fare nessuna cosa e mi è stato accanto, silenzioso e discreto in tutti questi anni, consolandomi con la sua sola presenza, soprattutto di notte. Ho cercato di capire perché lo amo tanto. È per il suo odore. Lui ha un odore assolutamente particolare. Sì, tanto simile al mio stesso odore, che devo ammetterlo. Con lui non mi sono mai sentita sola, perché è come un altro me stessa, un doppione di me, per essere più chiara. Non so come spiegare questo sentimento. Anche nei momenti di grande disperazione, lui riesce a consolarmi. E io conosco la vera disperazione, il dolore immenso, senza confini, il tremendo senso di abbandono, la solitudine completa in un mondo nemico. So di cosa parlo. E non si tratta di capricci, come dice quella persona che chiamo mamma. Secondo lei, io vivo di capricci, dalla mattina alla sera, e non si accorge di sbagliare, di non capire che cosa mi succede. Ma lasciamo perdere. Ecco, in questi racconti emerge però appunto quasi un dialogo tra soldi, tra virgolette, tra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini. Noi bambini vivono, lo dicevamo prima, parlando tra di noi, assolutamente nel presente. Quando poi si rompe questa magia, ecco, entrano in un periodo della, così, dell'adolescenza, e si diventa così agitati perché il futuro incomincia ad essere una prospettiva ed è un'incognita, il passato ancora non fa parte della nostra storia, della nostra consapevolezza, quello arriverà magari con i 30 anni, 40 anni. Però il vero momento magico della nostra vita è dopo l'infanzia, quando noi capiamo solo il presente, il momento, quello che ci sta accadendo, e lo percepiamo forse in maniera molto istintiva, ma senza per questo così rinunciare a una logica che è già presente, ma che non viene riconosciuta dagli adulti. E questo è un messaggio che mi sembra di poter accogliere nei miei racconti che ha scritto appunto Ada, e nelle protagoniste, nelle storie di queste protagoniste, Meli, Ida, Letizia, che compongono appunto un'infanzia quasi felice. Forse questa quasi felicità può essere la mancanza di comunicazione e di comprensione da parte dell'adulto, che il bambino comprende, ha una sua visione, non riesce a comunicarla perfettamente perché forse non gli interessa neanche ogni tanto di entrare in relazione con gli adulti sullo stesso livello. Forse siamo proprio in due mondi completamente diversi. Però io invidio molto il bambino e la sua capacità di vivere solamente il presente. Certamente. Ma osservando un bambino praticamente, ma con molta attenzione, non superficialmente, ci accorgiamo di tantissime cose che noi stessi sono dentro. Non c'è un adulto che non abbia dentro un bambino. Io dico che la mia bambina è rimasta dentro di me e quando scrivo è sempre quella bambina che scrive. E mi sembra di non essere mai cresciuta, di essere rimasta sempre lì, in quegli anni piuttosto tetri della guerra. Io ho vissuto la guerra. Nel senso che sentivo i bombardamenti, sentivo come arrivavano le bombe, mi struggevano, non si sapeva, c'è un racconto che Roma c'è aperta, che è la storia effettivamente che ho vissuto io, in cui effettivamente arrivavano questi bombardamenti dall'alto e non si capiva bene perché. La mattina ci si alzavamo e una casa accanto alla nostra era distrutta, oppure come nel caso mio, un mio fratello è uscito e non è tornato più, perché è stato ucciso in un bombardamento. Cioè, sono delle riflessioni che un bambino fa e pensa, perché ce l'hanno con noi questi? Perché buttano le bombe a noi? Cosa gli abbiamo fatto? Questa è una riflessione che un adulto non fa mai. Mentre invece un bambino, ma io me lo ricordo che lo pensavo, perché si erano passati tanti, tanti anni. Io ricordo benissimo le mie, io pensavo sempre i soldati americani, perché io i soldati tedeschi non li ho visti, ho visto soltanto i liberatori che venivano a Roma, e sì, c'è una scena qui, in cui io mi ricordo benissimo questi americani che facevano le parole e per esempio a me, bambina, regalavano la cioccolata, io sistematicamente non accettavo perché ero un bastian contrario già dalla nascita. Figuriamoci se prendevo una cioccolata da un americano. Manco a morire. E queste sono cose che un adulto non capisce. Infatti tu dici, ma come, ti dà la cioccolata e tu non la vuoi? No, perché io sentivo un'ingiustizia nella persona, nella presenza di questo soldato. A parte che tutte le divise, tutte dei militari mi spaventavano. E adesso racconto un episodio che mi è capitato molti anni dopo, quando già la guerra era soltanto negli anni 60, diciamo, quando ormai la guerra era finita da tantissimo tempo. Per la prima volta mi sono trovata al Quirinale, davanti al Quirinale, dove facevano il cambio della guardia. Ed era uno spettacolo, ci sono i granatieri, c'è tutto uno spettacolo di questi militari, eccetera, la gente che guarda, è una scena molto interessante. Io vedendo questi soldati, io sono scoppiata in pianto, a piangere, a singhiozzare che non mi fermavo più, perché in realtà lo shock di vedere questi soldati qua ancora non era stato superato. Questo è uno dei ricordi, per esempio, che mi è rimasto, questo mio, l'angoscia di vedere questi soldati che marciavano. Io francamente non mi piacciono quando gli uomini hanno una divisa, mai. Scusate, ma condivisibile, immagino che sia stata un'esperienza non indifferente e in effetti ci sono anche appunto dei racconti ambientati proprio in questo periodo e uno che mi ha così colpito in particolare è quello dedicato al viaggio sul vagone del bestiame. La protagonista qui è una bambina, è l'unico episodio dove non c'è un nome, la protagonista non ha un nome e poi ci spiegherò perché. Quella bambina sono io. Io racconto un episodio della mia infanzia in cui da Catania a Roma, per motivi familiari, per la mia famiglia, dopo la morte di mio fratello è andata veramente a gambe all'aria, è stato uno shock per tutti quanti, questo ragazzo di 15 anni. E per qualsiasi coppia di genitori credo che sia uno shock fortissimo, ma lì c'era un'altra questione anche importante, cioè che mia madre da Catania non voleva andare a Roma, mio padre invece diceva andiamo a Roma perché adesso Roma città aperta, eccetera, eccetera, e proprio a Roma è morto Zanello. Allora c'erano i sensi di colpa di mio padre, che dava la colpa a se stesso, che il suo figlio è morto, e la madre, la mamma, che da quel momento, devo dire, per 20 anni è stata sempre malata. Cioè lei non ha mai accettato la perdita di questo figlio. Ma per me bambina è significato un'altra cosa, la perdita dell'infanzia. Per me è finita l'infanzia. Con la morte di mio fratello, che aveva 10 anni più di me, anzi 11 anni più di me, è finita la mia infanzia. E questa è una cosa veramente molto traumatica, che mi porta ancora dietro. Scusate, io non volevo fare una serata così drammatica. Però io ho scelto questo racconto, tirano fuori il racconto. Abbiamo una terza puntata del racconto che ci leggerà Sanna, e poi vi promettiamo che parleremo solo di cose allegre. Oggi è successa una tragedia greca. Anche questa parola, che soltanto adesso capisco nella sua vera portata, prima veniva usata sempre dalla nonna per ogni piccola cosa insignificante, per cui non ci avevo dato molta importanza. Invece oggi posso dire che cos'è una tragedia, solo che non credo sia greca. Mentre dormivo, la mamma ha messo il mio orsetto nella lavatrice, perché, ha detto, dopo 3 anni era necessario lavarlo. Io me ne sono accorta quando ormai era troppo tardi. Me lo ha infatti dato già asciutto e ben pulito. Io però ho capito subito che qualcosa non era più come prima. Non soltanto il colore era diverso. La lavatrice si è portata via soprattutto l'odore del mio orsetto, e cioè di me stessa. Ho pianto disperata, e la mamma, forse per la prima volta, ha capito il motivo della mia disperazione, perché non le abbia detto che il mio orsetto non era più quello di prima. Ma non so come mi ha capito, forse perché il mio pianto era diverso dal solito. Adesso ho un orsetto che assomiglia al mio orsetto, ma non è lo stesso. Ha perso la parte più essenziale, posso dire la sua piccola anima, perché una volta la nonna ha detto che tutti abbiamo un'anima. Ho chiesto se anche le cose hanno un'anima, e lei, dopo averci riflettuto un po', ha detto no. Soltanto le creature viventi hanno un'anima. Io volevo sapere che cosa vuol dire creature viventi, se cioè anche gli alberi, gli uccellini, la mimì e il mio orsetto sono creature viventi e quindi hanno un'anima. La nonna ha riflettuto ancora, questa volta più a lungo. Sì, ha risposto, tutto ciò che vive ha un'anima. Ecco perché penso che il mio orsetto nella lavatrice abbia perso la sua anima, quella di prima, per acquistarne una nuova, alla quale dovrò abituarmi se voglio continuare a tenerlo con me. È stata una vera tragedia greca, come dice sempre la nonna. In questa occasione, però, ho scoperto che cosa è l'anima. La nonna non è stata in grado di spiegarmi niente. Mi ha risposto con la solita frase che so già a memoria: sei troppo piccola per queste cose, aspetta a crescere, poi lo capirai da sola. E invece io ho fatto le mie riflessioni. Il mio orsetto è sempre lo stesso, solo il suo odore è cambiato, cioè la sua anima. Devo allora concludere che l'anima è in realtà l'odore. Infatti ogni essere vivente ha un proprio odore, inconfondibile, unico, che lo differenzia da tutti gli altri esseri viventi. E ci voleva tanto per capire una cosa così semplice. E non è stato neanche necessario crescere per capirla. Bisognava soltanto pensarci su. E basta. Ecco, con questa lettura, diciamo, abbiamo dato una panoramica del racconto dedicato a Tina, ma altri protagonisti ci sono in questo libro: Medi, di cui ne abbiamo già parlato, e Letizia. Ci puoi raccontare qualcosa a chi ti sei ispirato per queste protagoniste, queste bambine piccole, in contesti molto diversi? Va bene. Allora, Letizia naturalmente era mia sorella, che è morta 20 anni fa, purtroppo. E questa, la storia di Letizia in realtà è la storia mia e sua. Eravamo due sorelline con una differenza di 2 anni di età. Io ho vissuto tanto, è una cosa che mi sorprende moltissimo, eh? È grande più di mia sorella, ma insomma è incredibile. Allora, in modo, mia sorella era l'avventurosa, quella che usava tutto, che veramente era sempre pronta a nuove esperienze, mentre invece io, quella persona che vedete qui, ero una vigliacca proprio da buttare via. Io mi nascondevo sempre, avevo paura di tutto, non osavo neanche parlare né fiatare. Io ero veramente l'ombra di quella che sono adesso. Voi potreste chiedervi come mai questa persona è cresciuta e è diventata così. Beh, questo me l'ha insegnato una vita. Questa è la grande lezione della vita. Finché ero bambina e c'era mia mamma che mi proteggeva, io non mi muovevo, perché c'era sempre lei che era come un muro davanti a me. Quando poi mia mamma è morta, io sono andata a Vienna e ho cominciato a diventare io. Prima ero soltanto una parte di mia madre. E questa è una cosa molto importante per noi donne, soprattutto per gli uomini, i ragazzini, perché io ho un figlio maschio, ho avuto dei fratelli, sono capaci di liberarsi molto più facilmente delle bambine. Le bambine restano più legate alla mamma, o è la mamma che le tiene più strette. Non voglio dire, perché io ho anche una figlia che ho sempre mandata nel mondo, perché l'unica cosa importante per me è l'indipendenza di una persona e di sapere chi sei. Ecco, questa è una cosa importante che ho scoperto soltanto quando sono andata via, quando è morta mia mamma, perché fino a tutti quegli anni mi sembra di aver dormito con gli occhi chiusi e le orecchie chiuse perché ascoltassi tanta musica e tutto quanto. Però la vita come è veramente l'ho vista soltanto quando è morta mia mamma. Questa è un'esperienza molto importante, dico, per carità, non deve morire la mamma perché uno si possa liberare, però staccarsi, spezzare questo famoso cordone ombelicale, ecco perché ci ho tenuto tanto a scrivere questo cordone ombelicale che spesso dura tutta la vita. E la volontà è sicuramente sempre della mamma, non della figlia. Questo lo devo purtroppo ammettere, sono sempre le mamme che tengono strette. Io ne conosco tante storie di questo, tante di storie di questo genere, dove io dico alle donne, alle ragazze: trova la tua vita, tu appartieni a te stessa, non a tua madre, né al tuo marito, né ai tuoi figli, tu appartieni soprattutto a te stessa. Questa è l'unica cosa, io l'unica cosa che possiedo sono io, e tutto il resto sono tutte cose che stanno al di fuori di me. Ma questo l'ho imparato veramente, duramente, quando io sono andata all'estero dopo la morte di mia madre. Questa qui è stata una lezione veramente molto dura, io so che ho sofferto moltissimo. E cosa molto strana, che adesso è un particolare della mia vita, io ho cominciato a mangiare, perché io non mangiavo mai. Era il modo di tiranneggiare mia madre, quella di non mangiare mai. Quando morì mia madre, io imparai a mangiare. E mio padre, che venne a visitarmi a Vienna e vide che io mangiavo, fece un'osservazione: scusate che parlo continuamente di mio padre, questa sera non ci pensavo nemmeno, ma così era la vita. E mi disse: devi aver sofferto molto, tu hai imparato a mangiare. Questo è un legame col cibo micidiale. Sì, ma adesso ti stavo ascoltando quando raccontavi appunto di questo legame con la mamma. Tu che hai viaggiato tanto, ti sei anche passato anche parecchio tempo in vari contesti, in vari paesi, noti una differenza tra quella che può essere il rapporto familiare in Italia, quindi un aspetto culturale forse che coinvolge e condiziona queste dinamiche rispetto a quello che può succedere in altri paesi? C'è una differenza, non so, nei rapporti familiari in Italia rispetto a quello che hai potuto vedere all'estero? Io devo fare un'osservazione molto importante. Io manco dall'Italia da oltre 50 anni. Oltre, sono 56 anni, dal 61, fate i conti. Quindi è chiaro che anche in Italia sono cambiate tantissime cose. E la storia famosa del bambismo italiano, credo che se c'è è nelle vecchie generazioni, le generazioni nuove non le hanno più. Adesso le donne hanno più, tu mi guardi così, sei molto scettica? Sì, sì. No, perché ho l'impressione che, per esempio, il fatto che le donne non vogliono più avere bambini, rinunciare alla maternità per una donna è uno dei passi più grandi che ci siano, perché certamente non è la questione di proseguire la generazione, perché ci pensano tante altre, non lo devo fare proprio io, però io devo dire che, nonostante tutte le mie rinunce, ho rinunciato a tantissime cose, devo dire che sono veramente grata di aver avuto un figlio. Quindi, e ho adottato anche una bambina. Quindi è un arricchimento della persona avere un figlio, e riconoscere nel figlio, cioè per me è stato dare a mio figlio quello che non ho ricevuto io, partendo da questo principio, cioè io ho rispettato tantissimo mio figlio, oltre ad averlo amato, ma questo è abbastanza banale. Amare il proprio figlio credo che lo facciano tutti, perfino i gattini, ma rispettarlo è un'altra cosa, e queste sono le cose che ho imparato tantissimo, e lui mi ha insegnato tanto, tanto, e senza mio figlio non sarei quella che sono io. Quindi questo fatto che le donne italiane, soprattutto in Italia, c'è una natalità così diminuita, cosa che non c'era prima le famiglie erano molto grandi, e che non dipende dalla pillola famosa, cioè è una decisione chiara della nuova, delle nuove generazioni, di non avere figli. Questo mi dà un senso di... io non posso più parlare del mammismo italiano, né del senso della famiglia italiana, perché non c'è più. Non posso fare dei confronti, perché ormai la società è cambiata enormemente in Italia. Questo lo sapete voi meglio di me? Non lo so. Forse potrei chiedere la cronaca di mostrare che qualche problema c'è ancora, poi io non sono una sociologa, però insomma gli uomini sono deboli e ammazzano le compagne, le fidanzate, le mogli, e comunque non sono preparati a qualcosa di diverso rispetto a prima, e spesso insomma se si torna indietro nella catena è che sono quasi autorizzati a certe scelte, a certe azioni, perché non esiste nel panorama culturale un rifiuto, un cambiamento. Ecco, forse la donna sta facendo dei progressi, l'uomo no, diciamo così, va aiutato. Sul fatto che non ci siano tanti figli in Italia è dovuto più che, io a volte penso che così, più che una scelta sia quasi una costrizione, perché effettivamente si arriva a 40 anni senza avere ancora un lavoro, si finisce a fare la commessa da qualche parte il sabato e la domenica senza avere i contributi, senza neanche avere il riconoscimento della malattia o della gravidanza, eccetera, eccetera. Lo so perché ieri una signora me l'ha detto, che a 30 anni ha un figlio di un anno e non le vengono pagati i giorni di malattia. Quindi insomma sono anche scelte molto coraggiose quelle di fare dei figli presto in una condizione non ancora stabile, solo che la stabilità si arriva in molto tardi, e questo probabilmente complica ulteriormente le cose. L'unica certezza che abbiamo è che la vita di Ada e delle sue protagoniste durante la guerra era difficile, ma che oggi comunque tante altre non è molto più facile per altri versi. Per altri versi, quindi è sempre una sfida, è sempre una scommessa quella di riuscire a ritagliarsi la propria indipendenza, i propri sogni, concretizzarli, anche quello di avere un figlio, a dispetto di quelli che sono i condizionamenti ambientali. Licenziamenti dei datori di lavoro, c'era una ragazza che rimane incinta. Sì, sì, sì. Non è cambiato moltissimo rispetto a tante cose. Abbiamo tante agevolazioni, non dobbiamo neanche lamentarci, però. Se il dato di fatto è che in Italia non c'è un tasso, diciamo, di crescita, ma addirittura sono più morti i decessi, non è uno stato che gode di salute, e questo è evidente che i problemi sono anche a livello sociale, di welfare e di tante altre cose, anche economiche. Ma economia. Sì, non, poi le donne effettivamente hanno potuto sicuramente poter puntare anche sulla scolarità, sull'educazione superiore, universitaria, quindi scegliere il percorso e avere in mano un proprio destino che prima era scelto, condizionato. Questo del condizionamento è un tema che ritorna molto forte, l'ho visto nelle pagine, l'ho letto, l'ho sottolineato un sacco di volte. No, questo condizionamento che i bambini subiscono, ma che in realtà poi ci portiamo dietro, forse anche in buona fede, no? Viene fatto perché stai attento, non fare la strada, stai attento, non fare questo, stai attento, non fare quello. Quando cresci devi toglierti un po', spogliarti da questa voce interiore che ritorna e che ti accompagna, sì, sempre in maniera pensata positivamente, ma in realtà a volte bisogna proprio liberarsi, non c'è niente da fare, bisogna imparare e affrontare le cose anche con una prospettiva propria, che non è sempre così scontata, no? Sì, ma il fatto fondamentale della educazione, e questo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, è i bambini hanno soltanto un musta, come si dice, un esempio davanti a sé, che sono i genitori. Nei casi più stretti la mamma, ma anche il padre, cioè si vedono questi due personaggi che sono, diciamolo, proprio due poveri esseri umani, anche se sono ricchissimi, questo non ha nessuna importanza, sono due poveri esseri umani che non hanno imparato il mestiere di genitori, non sanno come si devono comportare, e i bambini vedono soltanto queste due persone, quindi per loro esiste soltanto questo mondo, questo sistema di vita. Questa è una delle cose delle quali, per esempio, è difficilissimo liberarsi. Io lo so perfettamente per me, perché è una lotta continua quella di non ripetere quelle cose che ho visto, che ho sentito, che ho capito, pensavo fossero giuste, anche se razionalmente io so che non sono giuste, poi in qualche modo ripeto. E questo è veramente una grandissima responsabilità, quella di dare un esempio ai figli. Quando io parlo di rispetto, questo, a un certo punto diciamo le cose più banali. Io e mio marito non ci siamo mai insultati, cioè scemo, cretino o va quel paese, mai, soprattutto davanti ai bambini. A parte che poi abbiamo imparato che non ci siamo insultati mai, cioè si può litigare in un modo molto civile. Allora, quando il mio bambino venne per la prima volta da scuola e mi portò proprio una parolaccia di quelle brutte, io lo guardai e mi disse: l'hai sentito mai qui dentro? Dice: no. Bene, dico, non per qui dentro, io non lo voglio sentire, se tu lo vuoi dire lo dici fuori la porta. E così, questo è l'ho rispettato anche in questa sua volontà, questo suo voler dire le parolacce. Adesso so, per esempio, alla sua età so lui non dice mai parolacce, che lui non insulta mai nessuno, e in un certo senso gli ho dato una delle regole fondamentali, il rispetto verso l'altro, in questa forma. Ma noi ci siamo molto limitati, io e mio marito stavamo molto attenti al nostro modo di, ero io, perché devo ammetterlo, io sono una vecchia montessoriana, nel senso che ho capito attraverso mia sorella, che era lei la montessoriana, tante cose sull'infanzia, non ho inventato niente. Quindi Maria Montessori all'inizio del secolo scorso ha scoperto l'infanzia nel vero senso della parola, e questo è molto importante. Purtroppo in Italia non ha avuto possibilità, neanche perché il fascismo l'ha cacciato, ne ho parlato proprio recentemente, l'ha cacciato via, è dovuto emigrare in India, non so dove. Ad ogni modo, il rispetto per il bambino per me va più avanti dell'amore stesso. Ecco, forse c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Provocate. La signora. Io se posso, prego. Se posso, può. Io ho sentito ultimamente a lei il suo discorso di ultimo, adesso qua penso che mi sentono, grazie. Il suo discorso adesso è un po' positivo, però durante tutta la sera io ho sentito tante cose negative, mi dispiace per lei che nella vita abbia anche dovuto, però io ho sempre cercato il positivo nella vita, per me, per i miei figli, per le persone vicine. qualcosa di positivo se lo cerchiamo. Qual è la domanda? Mi scusi se la interrompo. Ha da farmi una domanda? Io ce l'ho il positivo, per me e mio marito. Ecco. Partiamo quasi. Negativa la sua positiva, e così andiamo avanti da 53 anni. Ma io non credo che la sua sia solo negativa. No, non ci credo. No, però io vedo la realtà, e questo qui è la differenza, cioè la vedo così come è, come non vorrei vederla, però è quella che è, la possiamo cambiare. È realismo, diciamo, non è negativa, ma è realismo. E di questo io non sono convinta. Io vedo nella vita tante cose belle. Io ho insegnato bambini piccoli, ma per anni, ma ho scoperto, ma tante di quelle cose bellissime, i bambini ti fanno anche venire nervoso, siete, vanno, eccetera, ma c'hanno talmente tanto, riempiono il mondo di vedere. Questa è una visione dell'infanzia che io accetto in parte. Possiamo un'altra? C'è qualcuno che vuole fare? Io vorrei cambiare un po' l'inquadratura. Lui vuole cambiare l'inquadratura? Non so se è colpa nostra o colpa sua. Ecco, cominciamo bene. Perché si finisce sempre a parlare delle storie e non come vengono raccontate? Cioè, le storie, in fin dei conti, ognuno ha delle storie da raccontare, non è quello che è importante, ma come si raccontano. È lì che nasce l'autore, l'autrice. Quindi, perché non si parla del come si racconta le storie? Oh. Questo veramente non me l'aspettavo. Lui mi conosce molto bene perché ha tradotto tutti i miei libri. Meglio di lui, credo che non mi conosca nessuno. Come si raccontano le storie? Questo qui è una cosa molto difficile. È come chiedere a un pittore come nasce un quadro. È la stessa cosa, né più né meno. Ha delle visioni, ha un modo. Non lo so, questa è una domanda che non resta a parlare a lei, ma non posso rispondere. Guarda, se posso rispondere io subito, corto così. Ma c'è una domanda le che abbiamo sentito tutte belle. Le storie che abbiamo sentito sono tutte belle. Si è parlato dell'importanza di essere un'entità completa, cioè di costruire una propria indipendenza, cosa che io condivido al 100%. Tuttavia, questa nostra completa indipendenza di persona viene secondo me intaccata, impossibilitata dalla nascita di un figlio, a causa, dico io, del senso di responsabilità. Cioè lei si appartiene a se stessa, però non potrà mai dimenticare, certo, che quell'altro, bene o male, affronta la vita, lati buoni e lati cattivi, ma perché c'è stata lei che ce l'ha messo. Quindi il considerare un figlio altro da sé è estremamente difficile. Lei può dire sì, ma non mi assomiglia proprio per niente, carattere diverso. Tuttavia, forse mentre il figlio può emanciparsi completamente dai genitori, lei come genitore non potrà mai staccarsi completamente dal figlio. No, posso dire il contrario? Ho scritto proprio recentemente, sto scrivendo una strana cosa, e ho scritto questa frase: come ho amato i miei bambini da piccoli, non li amo più adesso. Adesso ho un altro rapporto con loro, perché sono degli adulti. E non è lo stesso tipo di amore che ho per loro come lo avevo quando erano bambini. Quindi cambia anche il mio rapporto con lui, con loro, con i miei due figli, e ho, naturalmente non è più loro non hanno più bisogno di me. Questa è una cosa molto importante, ma da molti anni non hanno più bisogno di me e io non ho bisogno di loro, cioè io sono un individuo anche senza di loro. Questa è una cosa che bisogna anche accettare come madre, lo stacco. Questo è quello che ho visto da persone che conosco da molti anni, che non riescono a staccarsi dai figli, e questo è un guaio soprattutto per i figli. Allora, se io voglio che mio figlio sia libero, prima di ogni cosa lo devo staccare da me, e questo qui è un lavoro faticoso. è lavoro di molta razionalità e riflessioni, perché non ha più a che fare con l'emozionalità, altrimenti resta soltanto un rapporto tipico puramente emozionale tra madre e figlio. E io sono contraria a questo, completo, perché io avevo questo rapporto con mia madre, e quando mia madre morì fu una lacerazione terribile per me, e io questo non voglio che lo abbiano i miei figli. Quando io muoio dico pace all'anima sua, ecco là. E poi riuscire a graduare il rapporto di tra madre e figlio da bambino ad adulto non riesce sempre in tutte le coppie, però in alcune coppie si riesce a dare quello che è praticamente in quel momento, senza sminuire la personalità dei due rapporti. È molto difficile, però bisogna arrivarci. Sì, grazie. C'è qualcuno? Non avevo solo a dire una, raccontare brevemente una lezione di madre natura che mi ha fatto veramente, non dimenticherò, mi ha fatto riflettere. Tanti anni fa dei medi avevano fatto un nido sul mio balcone e io osservavo questo grande lavoro di costruire il nido e poi ha depositato questo tutto quanto, e veniva il maschio e si alternavano, insomma c'era un da fare enorme. A un certo momento la schiusa delle uova, ne sono venuti fuori questi esseri stranissimi, e quindi è continuato un lavoro terribile, terribile, che è durato esattamente giorni 13. Il 13° giorno la merla ha pensato che ormai avendo la coda, questi uccellini, dovessero andarsene. E quindi due se ne erano già andati seguendo la voce della natura. Il terzo, poverino, stava lì aggrappato sulla ringhierina e non se ne voleva proprio andare. La merla si è messa vicino a questo qui e non è andata via. Quindi anche il terzo, il 13° giorno, non se n'è andato per non tornare qui. Un bellissimo esempio, come gli animali hanno veramente, hanno ragione. Perfetto, veramente questo è perfetto. Sì, questo fitto è una grande lezione, perché si erano dati un da fare terribile tutti e due, il maschio e la femmina, però molto basta, se ne dovevano andare. Sì, io se non ci sono altre domande, volevo solo chiedere la scelta di raccontare la visione da parte di una bambina e non di un bambino, visto che lei l'esperienza ce l'ha, anche di pensare di raccontare la nascita o quello che vuole sentire che fosse una bambina, quattro bambine, e non un maschietto. Vabbè, io ho un maschietto, ho avuto un figlio maschio chiaramente, quindi ho capito molte cose. Con tutto ciò continuo a ripetere dopo tutti questi anni che per me i maschi restano sempre un libro chiuso. Io non li capisco, non li capisco, ma non capivo neanche mio figlio, cioè capivo le sue necessità, che erano tutte diverse da quelle mie. Le accettavo, lo aiutavo, tutto quanto, però che io possa immedesimarmi con lui non lo potrei fare. Ecco perché non lo posso fare, ecco perché scrivo di bambine, perché mi sono più vicine, cioè io posso identificarmi in una bambina, ma mai in un bambino, perché le richieste, i desideri e quegli impulsi che hanno i maschietti, le bambine non le hanno. È una questione ormonale, questo lo sappiamo già da tempo, quindi c'è niente da fare. No, penso che ci ho rinunciato da milioni di anni che stanno allora. Non penso che sia contrassegnato. Io posso accettare, ma non capire. Si può anche accettare senza capire. Sì, mi rifiuto di capire. Si può accettare senza appunto. Andiamo via le idee stasera. Volevo concludere questa serata molto vivace, molto sentita, e prima di cedere per ultimo la parola di nuovo ad Ada, leggendo quello che c'è nella copertina ed è scritto da Rodolfo Ventovello. Il racconto è quasi la cronaca di una solitudine infantile, scritto con un linguaggio asciutto, impietoso, come a voler esasperare il sentimento di abbandono che a volte è compagno inseparabile della fanciullezza. A fianco dell'icona consueta, infanzia uguale a età dell'oro, della fantasia e della felicità, ecco riproposta l'altra tipologia, quella della solitudine spirituale e dell'isolamento. Il personaggio, attraverso i suoi comportamenti, il prendersi cura di un nido, invia un messaggio facilmente decifrabile. L'infanzia conosce i propri bisogni e il proprio diritto agli affetti familiari. Ecco allora il senso della metafora del nido, ne parlava prima anche lui. Perché c'è un mito dei pecchirotti. Sì, sì, quasi con la suggestione di certi romanzi dell'Ottocento, il racconto si presenta come il prologo di una narrazione più lunga ed esauriente, che crea l'attesa di ulteriori sviluppi. Questo è il commento che ha fatto Rodolfo Vettorello per spiegare e motivare il premio che ha ricevuto in occasione di un concorso, cioè il concorso artistico letterario nazionale nel 2010, ha vinto il primo premio, così come a quello sempre artistico letterario nella sezione Lattio Opere del Mondo, dove anche gli altri hanno fatto. E sono solo due casi, perché poi se no mi leggo gli altri con le scuole delle catacombe, con Il silenzio e con tanti altri romanzi e racconti che troverete in biblioteca da noi, ma che questa sera sono anche acquistabili presso la libreria che abbiamo ospitato, e la ringrazio per avere un'altra occasione di lettura. A me non resta che cedere ancora il microfono ad Ada, salutarvi, ringraziarvi e lasciare la parola. Allora, in ogni caso sono io a ringraziarvi, perché prima di tutto sono ospite della biblioteca Claudio Augusta da 10 anni esattamente, per la prima presentazione è stata nel 2008 con la scuola delle catacombe, e non posso dimenticarlo perché non mi conosceva nessuno e mi hanno subito accettato. E tutti gli anni praticamente ho avuto una presentazione qui da questa persona di una squisitezza e una cortesia e una sensibilità veramente unica, e io ho la fortuna di conoscerla, questa è una grande fortuna. Primo questo, poi volevo dire un'altra cosa molto importante: non soltanto la biblioteca Claudia Augusta mi ha accettato, ma la città di Bolzano e il suo Tirolo mi ha accettato da ben 43 anni. E io sono molto grata a questo paese, molto grata. Prima mi hanno accettato come insegnante di canto, io ho insegnato qui alla Pinto Centro, ho una quantità di allievi su tirolesi, ho una quantità di relazioni. I miei migliori amici, devo dirlo, sono su tirolesi, sono dell'Alto Adige, italiani e su tirolesi, e tedeschi, come li volete chiamare. Allora, in modo che io sono così grata a questo paese che mi ha accettato, soprattutto perché io sono una persona molto difficile da accettare, questo paese poi che sono tutto il mondo, io lo so benissimo, perché sono veramente una persona molto difficile e molto critica, però sono stata accettata, ma proprio qui è una cosa eccezionale. Ecco perché vi ringrazio tanto e vi invito tutti quanti a brindare insieme a me per far festeggiare questo giorno così importante per me. Grazie.